Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo sempre noi, chi non si sa, però siamo qua. Sì, siamo alla ricerca di noi stessi. No? Ma anche di qualcos'altro, è un po' difficile in questa radio trovarla, però ci proveremo. Comunque 451 frammenti sonori ritorna dopo la pausa forzata di domenica scorsa, dobbiamo dirla a tutti gli ascoltatori, un problema alle ultime ore della serata di domenica scorsa, problemi tecnici interni alla radio non ci hanno permesso di andare in onda, oltre che noi anche il buon Jerry non è riuscito a mandare in onda la sua trasmissione, dunque ci siamo un po' tutti impaludati nella serata di domenica, un po' triste, no? La seconda puntata già saltati, comunque siamo un inizio, sì, un po' già singhiozzo. Qualcuno si lamentava che iniziavamo tardi, sì, uno, probabilmente, sì, però vabbè. No, ma insomma, contiamo quell'uno. Quell'uno ci ha mandato sta comunicazione sul blog che... E poi saltiamo anche la seconda, quindi pure quell'uno lì se, sì, ne va, se ne va, perché diceva questi sono dei pacchi, stanno fermi due mesi, non si sa che fine fanno, estate, agosto, settembre, ottobre iniziano tardi, la seconda quando salta, tra poco siamo a novembre, i morti, e, dunque... e lì facciamo la festa tutti quanti, anche perché festa. Se si continua così non... il primo è festa, no? Il primo è festa, io lo so perché tutti quanti hanno sempre i morti sono il 2, io essendo un po' oscuro prima, un po' dark, mi ricordo appunto la festa dei morti, 2 novembre, che non è però festa, devi andare a travagliare. No. No, vabbè, poi questa roba qua non mi appartiene. Non ti appartiene. Se vuoi, poi non so, se vuoi mi metto la zucca, ste robe. La zucca, anche il cappello da stregone. Sì, il cappello, vabbè. Ah, comunque il 2 è morti, il primo è santi. Sì, vabbè. Non so, andiamo anche informazioni sulle festività. Sì. La prossima Immacolata Concezione, poi Natale. E poi Natale. E poi c'è la fine del mondo, no? Prima. No, prima. Il 21, no? Il 21. Chiediamo anche a Jerry. Conferma. Jerry che sta qui con noi, lo salutiamo, anche lui ha ovviamente appena condotto la sua splendida trasmissione appena finita. Adesso noi ripartiamo, adesso bando ai nostri deliri classici della domenica notte iniziale, soprattutto 451 frammenti sonori, ricordiamo ancora il nostro blog no blog all'interno di autistici, 451frammentisonori.noblogs.org, potrete trovare tutte le informazioni inerenti alle puntate, alle non puntate, tipo quella di domenica scorsa, non c'è niente, ma abbiamo messo un messaggino criptico in codice all'interno del blog, chi vuol capire capisca, comunque dalla prossima settimana sentiremo anche la nostra voce, la nostra ultima puntata, cioè quella di stasera. Partiamo come stasera, un tema abbastanza a noi vicino, familiare. Sì, musiche dei generi, le musiche che partendo da determinata matrice, madre, e poi vanno a degenerare, vanno così a spostarsi, a travalicare gli stessi, insomma, la stessa stirpe musicale, la stessa famiglia, e quindi partendo ad esempio per Volcano de Boer, che inizierà questa sera, aprirà le danze, che danze, di 451 frammenti sonori, e si parte da un folk evidentemente trasmutato, se no addirittura proprio ONG, e nel senso di cos'è questa ONG? No, le ONG? Quelle sono le ONG, in realtà volevo vedere se stavi attento. Ah, okay. Perché, no, stavo attento, ecco. E partendo dal folk, quindi modificato geneticamente, quindi come si dice OMG. Beh, caro mio, poi sai come domenica sera con questa umidità mi danno un po' la testa, infatti anche dei capelli un po' schiacciati, sì, ricordano un po' i riser di David Lynch però schiacciati dalla cuffia, sì. E, beh, per iniziare quindi Volcano de Boer, che riprendono appunto una lezione folk ma assolutamente manipolata dentro strane frequenze elettroniche, strani droni, anche forme cantate che vanno un po' a inseguire la follia di un gruppo che è decisamente mosso da spinte, da intuizioni, potremmo dire dada? Oh, sì, ma forse, comunque sicuramente degeneri e degenerati. Assolutamente. Partiamo? Sì, folk degenerato, degenere appunto di Volcano de Boer. Thank you. americano The Beer, quindi ascoltati da questo disco che non è neanche l'ultimo, pensando insomma comunque di arrivare più o meno agli ultimi lavori. Abbiamo scelto questo Golden Rhythm Inc. Music, poi sì, un CDR comunque, diciamo in termini di album ufficiale è l'ultimo, quello della Rune Gramophone, e tra l'altro spiega anche un po' che cosa sta succedendo anche per un'etichetta storica come la Rune Gramophone, che da elettroniche eterie, anche piuttosto raffinate, alcuni aspetti anche dolciastri, ci sta spostando verso sonorità anche più sperimentali, cosa che poi in realtà sta facendo da più anni, e adesso addirittura appunto con un disco di questi pazzoidi, Volcano The Beer, Golden Rhythm Inc. Music, appunto, che come già avete ascoltato e potete ancora sentire in sottofondo, prende la materia folk e veramente la rigira sotto sopra, ne fa veramente un percorso musicale tortuoso, anche se poi appunto sempre condito da spirito anche piuttosto giocherellone. Avete sentito quelle elettroniche, quei nastri accelerati che davano questo colore così ilare al percorso, sì, per tanti versi accidentato, sicuramente degenerato rispetto appunto al genere, alla famiglia popular che tratta appunto Volcano The Beer in maniera così insomma insolita e particolare. E da Volcano The Beer a un vero e proprio maestro delle degenerazioni sonore. Direi che ha iniziato fin da piccolo, Elio Sharp, che non abbiamo spesso inserito all'interno di 451 frammenti sonori, non per volontà, ma probabilmente anche per casualità, e come lui ce ne sono moltissimi altri, e questo non ci può che stimolare per il futuro delle trasmissioni, nel senso che abbiamo di materiale sterminato ancora da inserire di autori come Elio Sharp. Elio Sharp, oltretutto, che abbiamo potuto ascoltare, vedere dal vivo all'Area Sismica 2 settimane fa, anzi promuoviamo ancora ovviamente come amicizia e collaborazione, che è presente anche nel blog, con l'Area Sismica, perché meritano veramente in termini di ricerca e sperimentazione, e soprattutto combattere con i problemi economici di una gestione di un locale, di uno spazio come l'Area Sismica, Area Valdino in Monte Forlì, dove appunto Elio Sharp aveva una possibilità importante, questo concerto solistico che ha sicuramente coinvolto gli ascoltatori, oltretutto parecchio pubblico in uno spazio piuttosto delimitato, un bel concerto, e a dimostrazione dell'eclettismo di quest'autore, che è iniziato fin da 6 anni a suonare il pianoforte, ma poi si è ribellato ai genitori, ha iniziato a suonare chitarra, clarinetto, e ha cominciato il suo percorso di ricerca fin da adolescente. Oltretutto ha una produzione che parte dalla fine degli anni 70, dunque piuttosto lunga la produzione di Elio Sharp. È iniziato a interessarsi di sperimentazione, di ricerca, inizialmente lavorando in termini legati soprattutto all'improvvisazione radicale, al free jazz, ma anche all'elettronica, a cui si è interessato in particolar modo con un grande sperimentatore come Roswell Rudd, futuro Lounge Lizard, e anche successivamente ha iniziato a lavorare e collaborare con grandi autori come John Zorn, Butch Morris, all'interno appunto di una sperimentazione sterminata, e lui effettivamente può essere veramente catalogato tra i degeneri, fuori completamente da ogni catalogazione. E ultimamente con il suo progetto Carbon, sì, ha lavorato anche sul settore blues, comunque si è avvicinato anche con blues primordiale, utilizzando poi delle tecniche che abbiamo visto dal vivo con la chitarra piuttosto particolare, una sorta di tapping, di finger picking portato all'estremo, lavorando su uno strumento, diventando la chitarra quasi una sorta di polistrumento, e costruendo delle vere e proprie orchestrazioni minimaliste che si risentono anche in altri progetti, in particolare nel disco che abbiamo selezionato della sterminata discografia, che è un lavoro insieme alla grande Zina Parkins, un lavoro del 1994 che appunto riprende anche delle sonorità anni 80, a cui lo stesso Sharp è legato, anche una certa no wave ha attraversato certe ricerche, una certa elettronica degli anni 80, la batteria soprattutto è quella che ha colpito particolarmente anche il nostro ascolto, e il disco appunto del 1994, Psycho Acoustic, che andiamo a sentire e andiamo a mettere in onda per ascoltare una delle facce di Elio Sharp, che sono multiforme, bisognerebbe sicuramente inserirlo in varie trasmissioni, in vari contesti, nei vari progetti che ha portato avanti. Intanto godiamoci questo lavoro e poi faremo un commento tecnico successivamente. Sì, poi ricordiamo anche un altro progetto di Sharp molto bello. Thank you. Splendido lavoro questo di Elio Sharp, ricordiamo ancora Psycho Acoustic 1994 insieme alla grandissima Zina Perkins. E Elio Sharp, insomma, ce n'è da dire, ecco, ne parlavamo proprio fuori onda io e Max su un disco particolarmente seminale, veramente decisivo, come Wism del 1981, uscito per la Zohar, che è stata l'etichetta che poi ha seguito nei primi anni di produzione lo stesso Elio Sharp, un progetto a cui hanno attinto moltissimi progetti musicali che sono venuti successivamente, in particolare appunto l'aspetto noise sperimentale portato avanti nel lontanissimo 1981 è stato veramente importante per gruppi come Sonic Youth, ma anche altri. Sì, Smons, lo stesso lavoro di Branca, di Chatham, era molto collegato con il progetto Isma di Elio Sharp, sì, eccezionale veramente, recuperatelo. Bisogna recuperare, ma ce n'è ancora molti da recuperare, direi, con moltissimi autori, dischi quasi perduti. Però, tanto questo, fatto tanto fatto questo, bueno, hai ragione. Se no qua uno si prova di... Si relativizziamo troppo, sì, effettivamente è vero. Comunque anche la produzione dello Sharp è veramente sterminata, e infatti fa ridere in alcuni siti internet quando danno le catalogazioni, gli pseudogeneri, cominciano a comparire delle liste lunghissime, c'è tutto dentro, il contrario di tutto, contemporanea, free, improvvisazione, elettronica, noise, no wave, ma lui ha veramente attraversato soprattutto la City, New York City, dagli anni 70 fino agli anni 70, in un periodo storico che abbiamo affrontato in molte puntate, decisivo, fine 70, inizio 80, e poi ha portato avanti progetti paralleli e non si è mai fermato, tant'è che a 60 anni suonati, che rimango basito dall'età, perché vedendolo dal vivo 2 settimane fa ne dimostra almeno 10 anni in meno, è uno dei casi rari di musicisti. Di solito tendono a dimostrarne di più, invece lui stava veramente in ottima forma, si capisce anche il percorso sonoro estremamente variegato e multiforme di questo autore assolutamente degenere. E da Elio Sharp andiamo a presentare un altro progetto che ricorda una città che non è New York ma sempre statunitense. Sì, infatti, San Francisco, appunto una storpiatura di Frisco, anche conosciuta così, insomma, da chi frequenta momenti psichedelici o alla ricerca, insomma, di quello che fu la storica città. Poi in realtà, insomma, San Francisco è tuttora, insomma, è piuttosto attiva musicalmente su altri versanti, ma anche forse ancora un circuito revival, ma vabbè, interessa ben poco adesso il revival qua, soprattutto stasera a 451 frammenti sonori, musiche degeneri, appunto partendo da una storpiatura di Francisco Lopez e Zan Hoffman sulla città californiana, allestiscono un processo e, Concert for 300 Magnetic Tapes è il titolo del lavoro, così dell'esperienza musicale che va a prendere sul serio e tanto di più dalla musica concreta, soprattutto come strumentazione, come anche manipolazione, ma non solo quella, anche proprio come viene diretto il suono attraverso vari mixeristi che appunto mixano in varie serate, presentate appunto dal vivo questo concerto per le 300 cassette, musicassette, appunto piastre, come si chiama una volta, magari si chiamano ancora così, ma secondo me sì, si chiamano, ma guarda che io ho trovato in alcuni negozi che vendono ancora le cassette. Sì, no, ma tra l'altro le cassette non le mettiamo direttamente noi, però molti gruppi del nuovo noise americano e non solo è vero. Reinventate, insomma, la cassetta come mezzo di, insomma, diffusione musicale. E in questo caso, appunto, nel 93 il mixerista era Gijon, presentato come tale, poi ci sarà un Casa del Palco, un Alcala de Arenas, poi anche le località, comunque i vari mixeristi hanno appunto manipolato in maniera differente, hanno mixato, anzi nel vero senso della parola, le varie piastre per dare appunto una loro composizione estemporanea del progetto San Francisco, ed è uscita una ulteriore degenerazione da quello che già è degenerato in termini musicali, non soltanto anche culturali, musicali, con la musica concreta. Diciamo, si è aperto ulteriormente una filiazione assolutamente imbastardita di quel suono e di quella scuola musicale, se vogliamo considerarla tale, insomma, visto che poi stiamo parlando di degeneri, insomma, un po' scuola, forse no, se scuola. Scuola l'antiscuola. Zero in condotta. Ecco, dopo scuola. Jean Vigon. E adesso dobbiamo anche dire agli ascoltatori che mixeremo Zan Francisco dall'album Concert for 300 Magnetic Tapes. Bello questo inglese con l'italiano. Sì, infatti, anche geniale. E vabbè, comunque siamo fatti così, dovete prenderci. Siamo fatti male. Siamo fatti male, lo rivendichiamo pure. Comunque, al di là di questo, Zan Francisco lo dobbiamo mixare, dato che sono due brani parecchio lunghi, ma interessanti, dato che il tempo è tirano, e dopo partirà il GR di Radio Popolare Netto. Dunque non rientreremo con la voce, ma rientreremo come conduzione della seconda parte della trasmissione. Adesso mixeremo appunto Zan Francisco con Keiji Aino, grandissimo artista polivalente, multiforme anche egli, con una produzione sterminata dagli anni 70, attraversando il jazz per arrivare a sperimentazioni elettroniche, per attraversare anche dimensioni rumoriste, rock, insomma giapponese assolutamente assurdo e assurdista, che è famosissimo per aver fondato, è uno dei fondatori del trio Fujitsusha. Scusa, non è famosissimo. No, però no, è nomi, molto di culto. È molto mi hai preso in castagna, ed è anche il periodo delle castagne. Però va bene, dai. Comunque è un gruppo che è stato importante per gli appassionati, che appunto non ve lo ridico perché lo trovate sul sito, perché Fujitsusha. È improponibile. Il disco invece che andiamo ad ascoltare è l'ultimo lavoro, uscito proprio pochissimo tempo fa, 2012. E anche questo non scherza, Imi Kuzushi, ma è andata bene, è uscito per la Madama Records appunto da pochissimo. Andiamo subito a sentirli perché il tempo è veramente poco, ci risentiamo dopo il GR. A dopo. Va bene? Oh, va sì, bene. Io un po' di attenzione alle castagne. La castagna. Black.